Niente, qui prosegue l'assedio questo pezzo di fronte, insomma. La verità è che le persone, che sono comunque centinaia, non demordono proprio, insomma, si vogliono avvicinare a tutti i costi a queste reti. In alcuni casi sono anche quasi riuscite a tirarle su, poi i lacrimogeni sono tantissimi e vengono sparati in un modo assolutamente indiscriminato in faccia alle persone, insomma, soprattutto dal ponte. Forse l'hanno già ricordato, uno di questi sta facendo praticamente scoppiare un incendio proprio sotto i pilastri dell'autostrada, però c'è comunque ancora voglia di tornare, anche se comunque adesso cominciano anche un po' a mancare le forze. C'è una grande determinazione a rimanere qui e comunque a prendersi con questi poliziotti, sono anche molto molto arroganti dall'interno del loro cortile, insomma. Senti, ascoltami, perché poi a noi ci sono arrivate anche delle chiamate di richiesta da Roma, perché in contatto con compagni che si trovavano anche un po' persi nella valle, perché abbiamo un po' anche spiegato anche la logistica, se c'erano novità per quanto riguardava i pullman da Roma. Te lo chiedo perché è stato chiesto e richiesto. No, i pullman in linea di massima partiranno regolarmente, anche se la gente da qui veramente non se ne vuole proprio andare, insomma. Cioè, questo elemento importante, insomma. Benissimo, no, immaginavamo. La Maddalena non si è svuotato assolutamente, anzi, i compagni sono stanchi perché comunque sono ore che stanno battagliando ormai, soprattutto contro i lacrimogeni, appunto. Con estremo rammarico, sapendo però che si ritorna. Ovviamente, eccoti, rieccoti, pronto, la linea va e viene ovviamente. Sì, dicevo, ovviamente il problema è che per quanto riguarda i pullman di Roma partiranno, insomma, adesso, anche dicevo prima, non c'è proprio assolutamente voglia di andarsene. Il presidio sta Maddalena, un po' di persone, lo farà. Niente, non riusciamo, il collegamento, come avrete immaginato, ecco, ora è proprio definitivamente saltato, perché purtroppo già la zona di montagna è particolare, poi metteteci che anche lì c'è un concentramento di migliaia di persone che spesso stanno anche tra loro al telefono. Vi leggo questa agenzia delle 16:26, il ferito grave fra i manifestanti, quello colpito al fianco forse da un lacrimogeno, dice forse l'agenzia, come è stato portato via sul sentiero per Giaglione sul lenzuolo teso a formare una barella. Al passaggio la folla ha applaudito, confermati i tre feriti tra i notav e gli scontri della zona dei viadotti autostradali. Questa è un'agenzia proprio appunto di qualche minuto fa. Nel frattempo vi leggo anche che i manifestanti hanno recuperato lo spazio della centrale e stanno montando in questo momento il presidio permanente. Dunque torna nuovamente il presidio permanente sgomberato in settimana.